Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Destini Incrociati oggi parliamo di cronometri e gomme, amicizia e tradimenti, pericolo e competizione. Per chi ama la velocità, arrivare primi a volte è qualcosa d'altro rispetto a un semplice obiettivo. È una sfida con se stessi, ancora più che con gli altri. È qualcosa che ha a che fare con il mettere alla prova la propria audacia, il proprio talento, la propria resistenza. E queste sono tutte prerogative essenziali per un grande pilota. Sono le caratteristiche che di certo non mancavano a un indimenticabile campione di Formula 1, come Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve. Amato da tutti, tifosi e colleghi. Un mito, impavido e spettacolare, che entrava nelle case come uno di famiglia, come ricorda il motociclista Marco Lucchinelli. Quando usciva di gara lui in televisione, chiudeva e non guardavo più la corsa. Villeneuve era impetuoso, aggressivo, ma di certo padrone della macchina. Dava gas in modo deciso. Eppure la sua follia era lucida, voleva vincere a tutti i costi e aveva pieno controllo della vettura. Eppure, in un caldo giorno di maggio, succede l'inimmaginabile. Circuito di Zolder, Belgio, 1982. Mancano pochi minuti al termine delle qualifiche del sabato. Villeneuve sulla sua Ferrari è sesto, le gomme sono ormai andate, ma vuole recuperare qualche decimo di secondo. Si lancia a 260, passa il rettilineo dei box dove i cronometristi prendono i tempi e arriva al curvone. 300 metri avanti vede una macchina che procede lenta a sinistra, proprio sulla sua traiettoria. È la March numero 17 guidata da Jochen Mass, che quando lo vede si butta tutto a destra per farlo passare, pensando che Villeneuve l'avrebbe sorpassato a sinistra. Villeneuve invece, nella stessa frazione di secondo, pensa che Mass si sposti a sinistra perché vuole affrontare la curva all'interno, lungo la traiettoria più veloce, e quindi anche lui si butta a destra. Lo scontro è inevitabile. La vettura decolla, fa alcune piroette in aria per poi schiantarsi violentemente contro un terrapieno a bordo pista. Gilles, dall'urto violento, viene scaraventato fuori dall'auto e finisce contro le reti di protezione, sbattendo il collo su un paletto di sostegno. Il casco si strappa e rotola vicino a lui. L'equipe medica interviene all'istante. A Zolder si provavano macchine e telecamere. Gli ultimi minuti delle prove, i più serrati come al solito. Sembra quasi che il cameraman, spaventato dal contatto in velocità tra la ruota della Ferrari di Villeneuve e quella della March di Joachim Mass, eviti di riprendere un incidente che non avrebbe mai voluto vedere. Più facilmente un caso, un attimo di distrazione, ci ha privato delle uniche immagini utili per capire di più. Villeneuve viene trasportato in elicottero all'ospedale più vicino. La moglie Joanne, che non l'ha mai lasciato un momento, proprio oggi per una beffa del destino non è venuta. Non c'ero in Belgio e quindi non so in quale stato d'animo fosse Gilles. Io ero a casa perché stavo preparando la prima comunione di Mélanie. E quindi quella volta non ero con lui. La chiamano appena succede il fattaccio. Joanne corre in Belgio, a casa lascia i bambini, Mélanie e Jacques. Ecco come ne parla proprio Jacques, che del padre seguirà le orme. Sì, il giorno dell'incidente era la prima volta che mia madre non andava in pista, era rimasta con noi a casa. E qualcuno ha chiamato e ha preso l'aereo e è andata via. Quindi non ci ha detto quello che c'era, però... l'avevamo capito. La morte di Villeneuve, quell'8 maggio dell'82 in Belgio, è una tragedia umana e sportiva. Lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi gli sta vicino, di chi tifa per lui. Al funerale, la chiesa straripa di fiori rossi, rosso Ferrari, quella Ferrari che l'ha accolto a braccia aperte e che lui ha contribuito a rendere ancora più grande. Enzo Ferrari, incredulo, affranto dal dolore, non ha la forza di andare. Per lui, che ha avuto una vita piena di lutti, padre, fratello, figlio, la morte di Villeneuve significa perdere un altro figlio. Del rapporto strettissimo tra Ferrari e Villeneuve parla Franco Gozzi, addetto all'ufficio stampa Ferrari. Non ha mai avuto un grosso sentimento, un grosso feeling con nessuno dei suoi uomini, dei suoi piloti intendo. Nel caso di Villeneuve addirittura mi dettò una frase che io discussi molto, ma che lui disse no, tu mettici così. E c'è una specie di panegirico di Ferrari dopo la morte di Villeneuve che termina io gli volevo bene. Tutti gli volevano bene. Era un fuoriclasse generoso e genuino, un professionista della corsa con i nervi saldi e pieno controllo di sé e della vettura. La sicurezza e il rispetto dell'avversario per lui erano al primo posto. E René Arnoux, rivale della Renault e suo carissimo amico, a raccontarlo. Gilles per me è stato uno dei piloti più grandi. Sapeva attaccare e spesso i suoi attacchi erano fuori misura, ma sapeva davvero restare in pista. E allora che cosa è successo quel terribile giorno a Zolder? Qual era l'ansia che lo muoveva? Perché quella febbre agonistica, tanto forte da spingerlo verso lo schianto fatale? Che cosa provava in quel momento Villeneuve? Cosa c'era di diverso rispetto alle altre gare? Prima di scoprirlo, facciamo qualche passo indietro e ripercorriamo la storia di questo indimenticabile campione. Gilles Villeneuve nasce nel 1950 a Saint-Jean, Quebec, la regione francofona del Canada. Fin da piccolo rivela la sua passione per i motori. I suoi giocattoli sono tutti a quattro ruote e a soli 6 anni risalgono le sue prime esperienze. I suoi zii sono impegnati in una ditta che costruisce trattori. Di nascosto Gilles ruba le chiavi e guida i mezzi agricoli, finendo più volte in campi o fossi, col trattore mezzo all'aria. Gli zii e il padrone della fabbrica, però, intuendone il talento, chiudono un occhio. Proprio come farà un sacco di volte Enzo Ferrari quando entrerà nella sua scuderia. È stato il re dei distruttori. A 10 anni Gilles guida già benissimo. Lo devono rincorrere per fargli fare i compiti. A lui, oltre ai motori, interessa solo l'hockey, il principale sport canadese. A 16 anni Gilles ha il primo incontro con il mondo delle corse. Qualcosa di particolare, sconosciuto al mondo intero ma tipico per il Canada. La motoslitta da neve. Prova e gli piace. Una folgorazione al punto che chiede a suo padre di prestargli i soldi per comprarne una, con la promessa che glieli restituirà. Con la motoslitta si diverte perfino ad andare a prendere la sua ragazza, quella stessa Joanne che poi sposerà, l'amore della sua vita. La Formula 1 gli è totalmente sconosciuta. Non l'ha mai vista, nemmeno alla televisione. Ma ha già lo spirito giusto. È lui stesso a raccontarlo. Prima che incominciassi a correre da professionista, correvo nella mia città. Ho cominciato a vincere una serie di gare. E poi sono finito a gareggiare con le case automobilistiche. Nel 73, con le motoslitte, riesce a vincere addirittura $25,000, una cifra importante per l'epoca, che investe cominciando a correre in Formula Atlantic. Grosso modo il corrispettivo della nostra Formula 2, rivelando quel talento innato per la velocità che lo farà fin da subito paragonare al grande campione degli anni 30, Tazio Nuvolari. Ecco come ne parla un giornalista. Un'attitudine per la guida che era totalmente unica, fisica e mentale. Un'attitudine rarissima da trovare. Ferrari spesso paragonava il giovane Villeneuve a Tazio Nuvolari, che correva prima della guerra. Li trovava molto simili perché entrambi erano in grado di superare le aspettative. Facevano cose che nessuno era mai riuscito a fare e in condizioni in cui nessuno aveva mai gareggiato. Gilles in Formula Atlantic comincia a vincere una gara dopo l'altra. Ed è proprio durante una gara che lo nota Chris Amon, eccellente pilota e collaudatore, per anni alla corte di Enzo Ferrari. Amon chiama altri nomi importanti e li convince ad andare a valutare quel ragazzo taciturno, timido e carino. Villeneuve non delude, guida con grazia e aggressività, conquista la pole position e la sua impresa fa il giro del mondo automobilistico, fino ad arrivare alle orecchie di Teddy Mayer, boss della McLaren. Qualche telefonata e Villeneuve è pronto a firmare il contratto. Intanto, a metà degli anni 70, cinema e televisione iniziano ad appassionarsi all'automobilismo. Anche Gilles vede Le 24 ore di Le Mans, il film in cui Steve McQueen, pilota anche nella vita, arriva secondo sulla sua Porsche dopo una Ferrari. Eccitato dal brivido della velocità ed entusiasta delle sfide, Gilles non coglie quello che, dalla voce di McQueen, sembra essere un terribile presagio. La gente spera di vederci morire. È uno sport in cui si rischia la pelle. Ti può succedere oggi. E domani ti può succedere di nuovo. Quando uno rischia la vita così, non dovrebbe farlo per qualcosa di molto importante. Sì, guai se no. Ma che cosa può esserci di tanto importante nel correre più veloce di chiunque altro? Tanti vivono facendo male quello che fanno. Correre è importante per chi lo fa bene. Quando uno corre, vive. E tutto quello che fa, prima o dopo, è solo attesa. Siamo nel 1977 e il giovane Gilles Villeneuve ha appena firmato il suo primo contratto con la McLaren. Alla sua gara d'esordio al circuito di Silverstone, il velocissimo tracciato britannico, intorno a lui c'è molta curiosità. Gli uomini di Maranello stanno curando con attenzione i nuovi piloti perché in scuderia gira il sospetto, fondato, che Niki Lauda stia per lasciare la Ferrari. Ai box della scuderia del cavallino rampante, Jean Campiche, l'ingegnere cronometrista, sta prendendo i tempi quando sulla strisciolina compare quello della McLaren di Villeneuve. Campiche è incredulo. Controlla di non avere sbagliato a schiacciare il tasto del cronometro. Villeneuve è un esordiente, non può aver fatto un tempo del genere. E invece l'ha fatto. Alla McLaren sono tranquilli. Pensano che Ferrari non sostituirà mai un pilota esperto come Niki Lauda con quel giovane, bravissimo, ma alle prime armi, appena arrivato dal Canada. Ma Enzo Ferrari ama le sfide. È un sognatore, un impulsivo e un'istintiva empatia gli fa capire che Villeneuve è l'uomo giusto. Ho fatto una scommessa con me stesso. Ferrari, ancora una volta, con il suo spirito imprenditoriale unito alla sensibilità dell'uomo della strada, dimostra di avere ragione e chiama Gilles a correre per la sua squadra. Quando Villeneuve, a bordo di una berlina chiara, poco appariscente, arriva per la prima volta davanti al mitico cancello di Maranello, si guarda intorno come un bambino e sul suo volto si legge tutta la felicità dell'essere entrato a far parte di una delle fucine di campioni più importanti del mondo. Ferrari, dal canto suo, lo accoglie fin da subito come un figlio e lo difende a spada tratta anche quando al Gran Premio del Giappone entra in collisione con Ronnie Peterson, si stacca dal suolo e ricade su alcuni spettatori appostati troppo vicini alla pista in zona vietata, uccidendone due. Il suo temperamento da campione e la sua guida aggressiva gli fanno conquistare il soprannome di Aviatore. Villeneuve è un acrobata che si mantiene in equilibrio tra incidenti e virtuosismi, come racconta l'amico e collega René Arnoux. Come pilota qui avait beaucoup de talent, un acrobate. Je dirais que c'était un acrobate au début de sa carrière qui a effectué pas mal de sorties de route. Le vittorie non tardano ad arrivare. Gilles ottiene la sua prima Formula 1 al Gran Premio del Canada del 78, circuito di Montréal. Montréal 1978, c'est la confirmation de Gilles Villeneuve. Il suo stile di guida, meraviglioso e nuovo, esalta il pubblico. Quando tu vedi me fare qualche cosa con macchina di serie, perché io piace che fai glissare le ruote, cosa così. Ma i veri successi arrivano solo nel 79, quando si piazza al secondo posto della classifica del campionato del mondo, preceduto dal compagno di squadra e amico Jody Scheckter di soli 4 punti. E sempre al 79, circuito di Dijon, Francia, risale il memorabile duello ruota a ruota tra la Ferrari di Villeneuve e la Renault Turbo di Arnoux, che alla fine vede prevalere Villeneuve. È uno dei momenti più spettacolari e intensi di sempre nella storia della Formula 1. Sta per concludersi, il pubblico inneggia, sta per concludersi questo Gran Premio di Francia e Villeneuve tenta l'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, adesso è Arnoux che tenta di resistere, eccezionale questo attacco di Villeneuve, una cosa incredibile quasi, eccezionale la capacità di questo pilota di tenere in strada la macchina anche a ruote bloccate, osservate il fumo che parte dai pneumatici, è riuscito con una frenata in extremis a superare nuovamente Arnoux mentre siamo ormai al penultimo giro. Villeneuve è freddo, concentrato, vince grazie a una sottile astuzia e un'incredibile sensibilità. Lui il motore lo sente e con la sua macchina parla, comunica. Le vittorie si susseguono. 81, Gran Premio di Monaco, e poi Spagna, e di nuovo l'indimenticabile Canada sotto un diluvio scrosciante, guidando per diversi giri con la visuale completamente accecata dall'alettone anteriore che prima si rompe e poi si stacca definitivamente. Il pilota va a attaccare al 99%, io va a attaccare al 110%. E in Ferrari Villeneuve, l'uomo che in pista ha i nervi d'acciaio e fuori si scioglie, sta bene, si sente a casa. Enzo, più che direttive tecniche, gli dà consigli da padre. I meccanici, a cui non mancherà mai di dare riconoscenza, stravedono per lui e i compagni di squadra gli vogliono bene. Soprattutto uno, un giovane francese dal caschetto biondo che con Villeneuve ha in comune passione e spirito agonistico e che con lui intrecerà indissolubilmente il destino. È il nostro secondo protagonista. Il suo nome è Didier Pironi. Didier Pironi. Villeneuve e Pironi, entrambi targati Ferrari, stessa età, stessa lingua d'origine, stessa voglia di correre e di divertirsi, sono grandi amici, praticamente fratelli. Dopo gli allenamenti, stanno sempre insieme, cene, chiacchiere, serate in compagnia. All'inizio tra i due c'è una sana rivalità, quasi goliardica. Ma piano piano il destino interviene a spingere l'acceleratore, il caso di dirlo, per portare i due protagonisti a un confronto decisivo, fatale. L'automobilismo è uno sport pericoloso in cui l'etica del rispetto è fondamentale e ci sono regole non scritte che bisogna naturalmente rispettare. Non sarà così tra Villeneuve e Pironi. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati è sulle piste di Formula 1. Siamo a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E la scuderia Ferrari, dopo l'abbandono di Niki Lauda, si è appena affidata a un giovane canadese alle prime armi, ma che ha già la stoffa del grande campione, Gilles Villeneuve. Sono i tempi dei piloti veri, con il sangue freddo e la voglia di entusiasmare. I tempi delle macchine col cambio, delle macchine col turbo, delle corse senza rifornimento in gara, dove potevi finire la benzina all'ultimo giro perché hai tirato troppo. Sono i tempi delle sfide epiche e dei sorpassi impossibili, di quella Formula 1 che la domenica tiene la famiglia incollata al televisore. Attenzione, il semaforo si sta per partire per gli 80 giri del Gran Premio di Spagna, settima prova del mondiale, circuito del Sarana a Madrid, 3.404 metri. 80 giri. Villeneuve è un mito perché è umano, non ha vinto tante gare, eppure grazie alle sue imprese è entrato nella leggenda. Quando è in pista, da spettacolo, la sua debolezza sta nel voler così tanto vincere un mondiale da non riuscire a staccare il piede dall'acceleratore quando a volte è meglio accontentarsi di punti comunque preziosi, piuttosto che spingere fino a fondere il motore, come racconta Lucchinelli. Lo criticavo perché vedevo in lui quello che poteva vincere molte gare e magari per irruenza le andava a perdere. Nel team Ferrari, Gilles, leale, sincero, spontaneo, stringe un'amicizia fraterna con il francese Didier Pironi, più freddo e calcolatore. I due corrono insieme in pista, fuori con qualsiasi mezzo. Tutti ricordano l'aneddoto dei due piloti fermati dai carabinieri per la folle velocità nella statale fuori Imola. Tra i due all'inizio c'è una competizione rispettosa, ma Villeneuve è decisamente più forte. E Pironi, stanco di essere sempre dietro, compie un gesto che a Villeneuve risulterà fatale. Ma andiamo con ordine e scopriamo chi è Didier Pironi. Didier Pironi nasce a Villecresne, una piccola cittadina francese non lontano da Parigi, nel 1952. La sua è una famiglia borghese di origini italiane, friulane precisamente, e il padre mette in piedi un'impresa edile grazie alla quale possono vivere in un sostanziale benessere. Il piccolo Didier ha già il mito della velocità. Segue il cugino che gareggia e non pensa mai a studiare, come ricorda sua madre in un'intervista. È stato sempre un fanciullo tranquillo e bravo un poco a scuola, ma non tanto. Gioca con i motorini dei ragazzi del paese. Passa le ore nell'officina di un amico di papà. Sta a guardarlo mentre ripara le auto. Gli piace toccare i pezzi di ricambio e sporcarsi d'olio. E nelle sue corde c'è anche la competizione. Con gli amichetti vuole sempre vincere. Non gli basta giocare, deve sempre arrivare primo. Una tempra che si accentuerà quando inizierà a correre in macchina da professionista, come ricorda il motociclista Franco Uncini, che di lui dice: mi piaceva l'irruenza, la voglia di arrivare a tutti i costi. Pironi, dopo aver vinto alcune gare minori, esordisce in Formula 1 al Gran Premio d'Argentina del 1978, quando ha 26 anni. Gareggia con la Tyrrell, squadra inglese per cui nei due anni successivi otterrà numerosi piazzamenti in zona punti e due podi nel 79, terzo posto al GP del Belgio e un altro al GP degli Stati Uniti Est. Le sue prestazioni sono buone e lo fanno approdare nel 1980 alla Ligier, ottima vettura, con la quale otterrà la sua prima vittoria al Gran Premio del Belgio. Il giovane francese, con la faccia da bambino e i capelli a caschetto, in realtà è una macchina da guerra. È tanto timido e taciturno quanto ambizioso. E la sua lotta per conquistare le prime posizioni è tanto tenace da farlo arrivare a fine stagione quinto assoluto nel mondiale con 32 punti. Ma la sua grande occasione arriverà tra poco, grazie a Enzo Ferrari. Il 1981 è Didier Pironi, è nel pieno della forma. Grazie alle sue ottime prestazioni in pista, viene notato da Enzo Ferrari, sempre attento ad accaparrarsi i piloti più valorosi. L'anno a Maranello non è facile. La Ferrari, per la prima volta nella sua storia, sta adottando un motore turbo. Ma il rodaggio è lento e complicato. Alla Renault lo stesso passaggio è durato quasi 3 anni. E i problemi tecnici costringono spesso i piloti della scuderia a ritirarsi. Ma tutti in Ferrari, incluso Pironi, sono ottimisti. Se di Renault va a approfittare la Ferrari, sicuro, però penso che la Ferrari sarà molto meglio che Renault per i motori. Penso che l'anno prossimo il motore non sarà un problema per la macchina. Quando Pironi entra in Ferrari non è la sola punta di diamante. Villeneuve, mito romantico, grintoso e buono, aggressivo sulla pista e a casa affettuoso padre e marito, è già in scuderia ed è il vero idolo dei tifosi della Rossa. Tutti in Italia e nel mondo si chiedono se ci sarà abbastanza spazio per i due campioni. C'è molta attesa per questa equipe Villeneuve-Pironi. Che rapporti hai con Gilles? Non problemi, molto, molto buono, però con Villeneuve sarà sicuro una... Ce sera certainement un coéquipier très positif pour moi dans la mesure où je crois qu'on sera motivés tous les deux plus que jamais. Et c'est, je crois que plus l'équipier est meilleur, plus on a gagné dans une écurie. Donc je crois que c'est très positif. Ecco, dice naturalmente Pironi che con un compagno che va forte c'è tutto da guadagnare. E infatti, almeno all'inizio è così. Villeneuve e Pironi si conoscono, si piacciono, diventano amici e si frequentano anche fuori dagli allenamenti, come testimoniano moltissime foto del periodo. Per entrambi, motori e velocità sono oltre che un lavoro un hobby. Tutti e due si divertono infatti a guidare elicotteri e barche offshore, di cui Pironi a Saint-Tropez è anche importatore. Gilles e Didier condividono vita e passioni. E anche Joanna e Catherine, le rispettive mogli, stanno spesso insieme. È come una grande famiglia in cui si soffre e si vince per la stessa squadra, la grande casa Ferrari. Certo, Villeneuve, grazie alle sue imprese spettacolari, è già un mito osannato dalle folle di spettatori. Ma è un uomo genuino, ha la generosità del fuoriclasse, come ricorda il pilota Jacques Lafitte. Gilles était d'un tempérament généreux et très généreux sur le plan de la conduite. E forcément donc très spectaculaire. Per Pironi all'inizio è facile rapportarsi con un mostro sacro dell'automobilismo come Villeneuve. Lo ammira, ne fa un modello. Ma presto in lui la stima per il collega e amico comincia a trasformarsi in qualcosa d'altro. Cresce in lui l'invidia per Villeneuve e per i suoi successi. E contemporaneamente la frustrazione di arrivare sempre secondo. La sensazione di vivere nell'ombra, proprio lui che è così ambizioso, lo logora. Finché un giorno succede l'incredibile, lo sgarro che nessuno avrebbe mai immaginato. 25 aprile 1982, circuito di Imola, Gran Premio di San Marino. Per una questione di regolamento legata al peso minimo della vettura, Lotus, Brabham e McLaren non partecipano. Ci sono Renault, Alfa Romeo, Osella, Toleman e Tyrrell, ma nessun reale avversario per le velocissime Ferrari nel loro momento di massimo splendore. Enzo Ferrari tiene particolarmente alla gara, è legato affettivamente a quel circuito così vicino a casa, quel circuito che è dedicato al suo amatissimo figlio Dino, scomparso anni prima. Il trionfo del cavallino rampante è annunciato e Villeneuve e Pironi rendono la gara spettacolare per divertire il pubblico. Pironi cerca di filarsi ed è riuscito a superare l'avversario, veramente al di là di ogni immaginazione questa corsa. La gara è strabiliante, la competizione è serrata, la platea di 100.000 tifosi divertita come non mai. Uno dopo l'altro si ritirano Prost e Arnoux. Gilles è davanti, ma si lascia passare con il sorriso dal compagno di squadra. Sa che poi lo sorpasserà a sua volta e andrà a vincere. Sì, perché nell'automobilismo le regole sono chiare. Si lotta per battere l'avversario, ma si lascia davanti il compagno di squadra, come racconta in un'intervista Gozzi, l'ha detto all'ufficio stampa Ferrari. Noi, intendo noi Ferrari, avevamo anche combinato che in seno alla squadra chi fosse stato in testa nella seconda parte della gara avrebbe congelato la posizione e sarebbe arrivato. Gilles è tranquillo, pensa che Didier voglia accentuare la spettacolarità della gara, sta al gioco. Ma al 50° giro Pironi si fa prendere la mano. Non ne può più di stare nell'ombra di Villeneuve, di brillare della sua luce. E pensa che sia questa la sua occasione di dimostrare quanto vale. Schiaccia l'acceleratore e supera l'amico, negli occhi alla sete di vittoria. Gli uomini di Maranello sono increduli, non capiscono. Deve vincere Villeneuve, è lui che sta davanti. Pironi continua la sua corsa folle, non vede neanche il cartello slow, piano, che espongono dai box. E supera di nuovo Villeneuve al 54° giro. E a questo punto neanche Gilles scherza più. A due tornate dalla fine, deciso a non farsi scippare la vittoria, attacca nuovamente il compagno con una staccata al limite alla curvatosa. Ma all'ultimo giro, ancora alla staccata della curvatosa, Didier si riporta in testa e taglia vittoriosamente il traguardo. Pironi ha vinto il secondo Gran Premio di San Marino. Per la Ferrari, il Gran Premio di Imola è un trionfo, ma Villeneuve è distrutto. È sul podio, ma quel tradimento di Didier brucia come una ferita aperta. È doloroso, ingiusto. Gilles sente che non ha perso solo una gara, ha perso anche un amico. Pironi, dal canto suo, non si preoccupa di giustificarsi. Non c'erano ordini prestabiliti, ovviamente. Vinca il migliore, questa era la regola, probabilmente. Sì, penso vinta il migliore o quello che ha il più di fortuna, sì. Però per una volta penso che sì, una vittoria per me non è ingiustizia. Certo, tu hai visto i segnali, i cartelli, c'era slow per tutti e due, cioè mantenere le posizioni o no? No, slow vuol dire slow, cioè, mantenere le posizioni, sì, sì. Vuol dire mantenere le posizioni. Ah, cioè, due cose diverse, dice te. La faccia di Villeneuve quando abbandona il podio parla da sola. Sul volto ha incredulità e delusione. Considerava Pironi come un fratello e la sensazione è terribile. Lo sgarbo è davvero inaspettato. Quando perdi perché l'avversario è più forte, c'è tanta rabbia, ma accetti la sconfitta. Ma in questo caso no. Una cattiveria giocata da un compagno di squadra solo per soddisfare la sua sete di vittoria non la puoi proprio perdonare. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo raccontando una storia di auto da corsa e amicizia, tradimenti e sorpassi. 1982, circuito di Imola. Al Gran Premio di Formula 1 di San Marino, per la Ferrari, è una vittoria annunciata. Villeneuve è primo. Gli uomini di Maranello aspettano solo che tagli il traguardo. Ma Pironi, l'altro ferrarista e suo amico fraterno, con una serie di manovre azzardate gli soffia il primo posto. E questo gesto, fatto da un compagno di squadra, è doloroso e inaccettabile. E dire che proprio Pironi era solito sottolineare quanto fosse forte lo spirito agonistico in Villeneuve. Gilles avait plus que tous les autres. Gilles aveva più di tutti quello spirito di competizione che lo spingeva a fare di più degli altri. Accettava meno degli altri di essere secondo, di non dare il massimo. Non accettava di non essere il primo. Sul podio di Imola, Gilles è scosso, turbato. Non tanto per la sconfitta, quello che brucia davvero è il tradimento dell'amico. E quando Pironi cerca di coinvolgerlo nella festa, alzandogli anche il braccio per riconoscergli i suoi meriti, Villeneuve si sente preso in giro, lo ignora e se ne va. Seguono amarissime dichiarazioni ai giornali, alimentate dal fatto che la Ferrari decide di non punire Pironi. E lo stesso Enzo, che ha sempre difeso Gilles come fa un padre con un figlio, questa volta minimizza, dichiarando che non gli importa quale dei suoi piloti vinca. L'importante è che vinca la Ferrari. Gilles si sente solo, abbandonato e tradito dagli amici e dalla squadra. Le voci dei soliti ben informati fanno supporre che lascerà la Ferrari per passare a una scuderia rivale, o forse che ne metterà in piedi una nuova tutto da solo. Di certo in lui sta covando il seme della voglia di rivincita, quella voglia così potente di dimostrare quanto vale. Dopo il tradimento di Imola, Pironi cerca di recuperare l'amicizia con Gilles, di chiarirsi con lui, ma è tutto inutile. Gilles non vuole parlargli, non accetta scuse. La ferita continua a bruciare. In Ferrari sono tutti coinvolti dal litigio tra i due piloti e la situazione è tesissima. Intanto ci si prepara all'importantissimo Gran Premio del Belgio. 8 maggio 1982, circuito di Zolder, Belgio. Mancano pochi minuti al termine delle qualifiche del sabato. Villeneuve è sesto e quello che è diventato il suo più grande nemico, il compagno di squadra Pironi, è davanti a lui terzo. Ecco come lo ricorda Gozzi. Figuriamoci com'era lo stato d'animo di Villeneuve di fronte al miglior tempo di Pironi. Gilles vuole prendersi la sua rivincita, deve battere Pironi, dimostrargli che è comunque lui il più forte. Soprattutto deve vendicarsi di quel tradimento doloroso di Imola. E così quando sta per rientrare ai box, decide invece di andare a tutta velocità verso il curvone del bosco. È in quinta piena quando si trova davanti la Marche numero 17 di Joachim Mass, ben più lenta della sua Ferrari. Mass distinto si sposta a destra per far passare Villeneuve a sinistra. Ma Villeneuve, nella stessa frazione di secondo, pensa di affrontare la curva a destra e si sposta anche lui. Lo schianto è terribile. La Ferrari di Villeneuve fa un volo di alcuni metri e il pilota viene scaraventato contro la rete di protezione. Le cinture di sicurezza penzolano dal sedile, il casco si strappa. La scena è spaventosa e Mass non riuscirà a togliersela dalla testa per tutta la vita. È indescrivibile. Non riesco a raccontare quello che ho provato, quello che ho visto. È stata una combinazione di decisioni sbagliate nel momento sbagliato. È stato davvero orribile. Gilles è a terra, immobile. I medici intervengono immediatamente. Arriva un elicottero, lo porta in ospedale. Intanto Joanne corre in Belgio, incredula, disperata, dal suo Gilles che finora non aveva mai lasciato solo. Ogni tentativo di salvarlo è vano. Alle 21.52 dell'8 maggio 1982, il più grande artista della Formula 1 esce per sempre di scena, per entrare nella leggenda. Il corpo di Gilles viene portato in Canada e al funerale, nella sua chiesetta di Berthierville, c'è un tripudio di fiori rossi, rossi come la sua Ferrari. Il lutto per tutti è stato inaspettato quanto doloroso. A fare l'elogio funebre è Jody Scheckter, suo grande amico e compagno di squadra. Gilles è stata la persona più genuina che abbia conosciuto. Seconda cosa, Gilles è stato il più veloce pilota da corsa che la storia abbia mai conosciuto. Se n'è andato facendo qualcosa che amava molto. Nessuno di noi potrà mai... Nessuno di noi dimenticherà mai quello che lui ha dato al mondo delle corse. Malgrado lo shock causato dalla tragica scomparsa di Villeneuve, Pironi continua a correre. ottiene numerosi piazzamenti in zona punti e si ritrova in testa al mondiale. Ma il Gran Premio del Canada dello stesso anno, nel circuito dedicato a Villeneuve, rimane coinvolto in un tragico incidente. Al via la sua Ferrari si spegne in mezzo alla pista e Riccardo Paletti, che partiva in ultima fila, non riesce a evitarla. Per il giovane pilota italiano, l'urto è fatale. Ma non è finita. Pironi sembra destinato a vivere tragedie una dopo l'altra. Il destino crudele è di nuovo dietro l'angolo. Al Gran Premio di Germania, Pironi vuole collaudare la vettura con la pista bagnata. Sul lungo rettilineo prima del motodrome, Didier è dietro alla Williams di Derek Daly, che improvvisamente esce dalla traiettoria. Pironi pensa che Daly voglia tagliargli la strada, ma invece sta solo sorpassando la Renault di Alain Prost, che Didier non aveva visto. L'impatto è violentissimo. L'auto di Pironi fa un volo di metri e ricade muso al suolo. La similitudine con l'incidente di Villeneuve è tanto automatica quanto macabra. Pironi è imprigionato nelle lamiere, urla di dolore, ha le gambe distrutte dall'urto. La scena è raccapricciante. Nelson Piquet, a vederla, si sente male. Intervengono i soccorritori, lo portano all'ospedale. Pironi subisce una serie infinita di operazioni, ma la cosa che gli interessa più al mondo, ricorda il suo medico, è correre ancora. La prima cosa che mi chiese era se poteva salire ancora su una macchina di Formula 1. La guarigione è lenta e dolorosa, e il ritorno alle corse è impossibile. Se ami la velocità, però, non puoi davvero rinunciare. E così Didier passa alla motonautica. Vince qualche gara, sembra aver trovato la sua strada, ma si sa, a volte il destino si accanisce. Il 23 agosto 1987, al largo delle coste dell'isola di Wight, la sua barca si ribalta nella scia di una petroliera. Muore con i due membri del suo equipaggio. Finisce così in mare, a 35 anni, la tormentata storia di Didier Pironi. Così lo ricorda Gozzi. È un destino strano questo di Villeneuve e di Pironi, perché nel giro anche Pironi ha passato un bel calvario, perché mi pare che fece 22 o 23 operazioni al piede, eccetera, prima di morire. E mia moglie diceva, è Villeneuve che lo tira per i capelli, e non, queste sono cose naturalmente da cabala magica, ma... uno strano destino, una specie di doppio filo che li abbia legati tutti e due. Villeneuve e Pironi, una storia di amicizia, tradimenti, corse in macchina e incidenti tragici. Un destino che li ha uniti, una morte precoce che li ha presi entrambi in velocità. Poco dopo l'incidente di Pironi, sua moglie Catherine dà alla luce due gemelli e li chiama Gilles e Didier. Per due padri che se ne vanno, due nuove vite affrontano il loro destino. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.